Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori, questa sera parliamo di cultura, ne parliamo con il professor Luca Zan. Buonasera Luca Zan. Buonasera a tutti. Luca Zan è docente di management dell'arte presso il Gioca Università di Bologna, fra poi ci spiegherà cos'è questo Gioca, è docente anche a Pittsburgh e a Pechino e ha una visione internazionale della problematica di gestione operativa dei beni culturali, del patrimonio artistico, di tutto quanto fa cultura. Allora Luca Zan, innanzitutto che cos'è il Gioca? Il Gioca è una laurea magistrale internazionale in inglese in gestione e organizzazione delle organizzazioni culturali e artistiche presso l'Università di Bologna. Questo è il tredicesimo anno che operiamo e da 6 anni circa abbiamo trasformato completamente il corso in lingua inglese. Ecco, quindi da questi corsi, da questo gruppo, da questa laurea magistrale è nato anche questo libro, che è un libro che raccoglie vari interventi che lei ha coordinato e in parte ha anche scritto, raccoglie vari elementi, vari interventi, tutti per approfondire quale tematica? Il problema proprio della gestione, no? Nel senso che spesso si parla di cultura, si parla di politiche culturali, si parla di economia della cultura, si parla di diritto della cultura, però molto spesso poi dove casca l'asino, per dirla in parole semplici, dove poi le cose rischiano di fermarsi e di non realizzarsi è proprio sui modi di gestione, sulla gestione operativa di queste organizzazioni. Ecco, in questo senso la gestione è uno dei punti deboli, si è parlato molto nelle ultime settimane, per esempio del caso Pompei, voi dedicate in questo libro un capitolo, Pompei l'autonomia negata, perché il caso Pompei è significativo sotto questa prospettiva? È molto significativo perché Pompei non solo è il sito più importante italiano, ma perché proprio in Pompei nel 1997 c'era stata questa riforma dell'autonomia dell'autonomia di Pompei, vista 10 anni dopo da uno spaccato estremamente sconsolante delle difficoltà della nostra pubblica amministrazione. In realtà questa riforma è stata non capita dall'apparato, è stata ostacolata, è stata smontata pezzo per pezzo in modo sistematico e nel nostro, credo che sia l'articolo, il capitolo più triste che abbia scritto nella mia vita, ricostruiamo proprio questa promessa non mantenuta. No? Ecco, lei scrive, le sfortune di Pompei non sono tuttavia il risultato di una sorte avversa che si è accanita sul sito vesuviano, esse riflettono alcuni problemi di ordine più generale che caratterizzano la pubblica amministrazione del nostro paese. Sì, assolutamente. Cioè, noi, cioè questo è, diciamo, è il punto che un po' qualifica il nostro gruppo di ricerca, no? E in fondo, se noi vogliamo capire i problemi e confrontare i problemi di Machu Picchu, Pompei, l'esercito di terracotta in Cina, ci sono tante cose che sono normalmente discusse nei convegni tra gli esperti di archeologia, di museologia, di gestione dei siti e via dicendo. Però non si capiscono i diversi problemi in questi siti se non si capisce come cambia o come non cambia la pubblica amministrazione in Perù, in Cina e in Italia. Ecco, voi fate anche un esempio sulla Turchia, della penisola storica di Istanbul. Ecco, ma quali sono le differenze, per esempio, perché Machu Picchu può essere un esempio? Ma può essere un esempio proprio per capire le differenze, no? C'è una visione molto autarchica, non solo in Italia, devo dire, in tutto il mondo, trovare un articolo che compari 2 siti o 2 musei di 2 paesi diversi è impossibile. Cioè c'è questa idea che tutti noi siamo diversi, no? E invece capire cosa funziona, cosa non funziona, quali sono le differenze, credo che sia abbastanza necessario, sia per capire le differenze a cui non vogliamo rinunciare, perché sono parte della nostra identità, sia per capire le cose che invece si potrebbero cambiare e potrebbero funzionare molto meglio vedendo cosa succede negli altri paesi. Ma quello che sembra di cogliere leggendo queste pagine è che in Italia c'è un certo atteggiamento per cui, avendo un grande patrimonio culturale, in fondo questo patrimonio culturale basta a se stesso, basta che ci sia. Invece voi sottolineate che c'è bisogno di una gestione operativa molto precisa e secondo delle strategie molto ben definite. Esatto, cioè nel senso che noi parliamo di decentramento e centralizzazione e di solito la parola stessa centralizzazione è una parola fuori moda, no? E che non attira subito le simpatie. Va detto che la capacità di preservare, proteggere il paese e quello che le soprintendenze hanno espresso in decenni di lavoro è assolutamente frutto della centralizzazione, no? Mentre per opposto, se uno va in Cina, uno dei motivi che hanno portato alla distruzione del patrimonio è l'eccesso di decentramento. Quindi noi non facciamo un discorso di tipo ideologico, no? Per certi aspetti la centralizzazione è assolutamente funzionale e superiore, funziona meglio. Per altri aspetti invece è necessario decentralizzare, e questa incapacità però di decentralizzare, di decentrare e di dare reale autonomia ai siti, ai singoli istituti, è una cosa che uno riscontra un po' in tutto il mondo, devo dire, in tutto il mondo legato alla tradizione di diritto romano, per intenderci, cioè il mondo anglosassone è molto più capace, molto più flessibile di procedere lungo questa via. Però già questa è una grande osservazione, nel senso che tutto il discorso dell'autonomia in realtà è un discorso che noi prendiamo perché siamo influenzati dalla letteratura americana, però in realtà in tutti i paesi a diversa tradizione amministrativa funziona fino a un certo punto, cioè lo stesso discorso a Machu Picchu. Machu Picchu non è un sito autonomo, Machu Picchu è un pezzetto di una sorta di soprintendenza regionale, no? Per cui anche lì non c'è autonomia. Però noi abbiamo sempre questo bias, questa idea che di fondo questa è la strada e questa è la situazione. Certo, ma voi per esempio fate anche l'esempio di Bologna, capitale della cultura, che è stata capitale europea della cultura del 2000, che in fondo non ha saputo valorizzare tutti gli elementi che avere questa attenzione avrebbe potuto comportare. Per esempio dite che per far crescere i visitatori nei musei si è dovuto in certo modo aprire i musei gratuitamente, allora questo è stato l'unico modo per far crescere i visitatori. Però i risultati di questo essere capitale europea della cultura sono stati molto inferiori non solo alle attese ma forse alle potenzialità. Assolutamente sì, perché lì poi, voglio dire, noi prendiamo Bologna, avremmo potuto prendere qualsiasi città, voglio dire, non credo che Bologna sia messa particolarmente peggio di altre, però è ancora una volta questo modo della politica e del dibattito generale, no? Di intervenire sulla cultura, dove non c'è mai una esplicita formalizzazione di progetti, di strategie, una valutazione ex post, un monitoraggio di cosa è stato effettivamente realizzato, e sulla base di questo, del realizzato o del non realizzato, una riproposta di strategie, di politiche più o meno che confermino o cambino, però in modo esplicito quello che è stato fatto e quello che è stato raggiunto. Tra l'altro una cosa che noi cerchiamo sempre di fare nelle nostre ricerche è quella di non fare mai partito preso, sì, no, bello, buono, realizzato, no. Voglio dire, la stessa Bologna è stato fatto parecchio, voglio dire, da un punto di vista del recupero, del distretto, delle manifatture, quindi in realtà è stato fatto anche, però sempre in questo modo in cui la politica non si siede al tavolo con gli operatori e con gli amministratori per dire ok, allora da qui, da questo piano politico, da questa visione arriviamo a questo business plan, arriviamo a questa allocazione delle risorse, e se per caso poi le dobbiamo cambiare, le cambiamo in modo esplicito, non in modo sempre sotterraneo, perché alla fine nessuno è responsabile più di nulla. Ecco, in questa prospettiva possiamo dire, magari concludendo, che dato che in Italia si è fatta una gestione del patrimonio culturale in fondo limitata, in fondo carente, le potenzialità di sviluppare questa valorizzazione sono ancora molto ampie. Sono assolutamente ampissime, e voglio dire, noi veramente abbiamo una fortuna che pochi hanno, voglio dire, con la ricchezza e la capacità di attrazione, se solo ci muoviamo, cioè riusciamo a muoverci in modo un pochino più sistematico. Voglio dire, Pompei è ancora un esempio, per quanto noi la gestiamo male, lo gestiamo in modo che veramente ritengo sia una sorta di vergogna nazionale, poi quando vai a parlare con gente di Stato Pompei è bellissimo, cioè, nonostante tutto è poi bellissimo, quindi abbiamo anche questa fortuna. Certo che bisognerebbe veramente cambiare passo da questo punto di vista. Forse perché abbiamo troppi beni che non riusciamo a concentrarci nel valorizzarne quelli che veramente vanno valorizzati, oppure ci vorrebbe un maggiore decentramento perché ogni autonomia locale possa valorizzare i propri beni culturali. Credo entrambe le cose, cioè nel senso che se uno va in giro per il mondo vedi dei musei che hanno delle collezioni che da noi sarebbero in un sottocantina perché di scarsa rilevanza, certo. No? Nel senso che con pochissime cose, altri sono costretti a inventarsi un po' di fantasia. Noi, avendo talmente tanto, voglio dire, effettivamente siamo meno costretti, meno pressati. E poi comunque c'è questo discorso che è drammatico proprio, di questa, cioè, se ne comincia a parlare oggi, ma se ne parla in un modo che nella cultura e nell'arte non è stato esplicitamente evocato. Il problema di come la nostra burocrazia, la nostra amministrazione rende il tutto difficile. Riesce a complicare anche le cose semplici e riesce anche a complicare anche le cose belle. Grazie, esatto. Grazie professor Luca Zan, ricordo, grazie di essere stato con noi questa sera, curatore del libro La gestione del patrimonio culturale, un libro edito dal Mulino, sono 312 pagine per 28 euro. Grazie anche a quanti ci hanno seguito, grazie a Gianmarco Ferronato in regia, Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona serata.